dalla Colombia trasmette Radio Metropolica Internazionale. Una stazione radio per l'America e per il mondo. Radio Metropolica. Quello che sei.